Le autorità vietnamite hanno ammesso la morte della quinta persona contagiata dal virus dei polli. Si tratta di una ragazza di 8 anni della provincia settentrionale di Hat Thai e che segue di qualche giorno quella di un bambino di 5 anni di un'altra zona del nord. 8 altre morti sospette sarebbero sotto osservazione, ma i numeri continuano a variare. Le autorità vietnamite, che per prime riuscirono in Asia a circoscrivere ed eliminare la SARS, la malattia polmonare che sta tornando a colpire la Cina, erano già intervenute ad Hanoi da una quindicina di giorni e al mercato della capitale erano già apparse tra i venditori di pollame le prime mascherine e il serio timore che la paura della febbre, già tradottasi in un calo della domanda, si sarebbe presto trasformata in un vero e proprio contagio psicologico. In Vietnam sarebbero almeno 2 milioni i polli già macellati, mentre in 12 province si procede alla selezione e alla macellazione di diverse altre migliaia di volatili a rischio. Gli altri paesi dell'area non stanno meglio. A Taiwan, dopo che in una settimana 2 allevamenti sono risultati colpiti dalla forma virulenta, almeno 50.000 polli sono già stati macellati e la paura dell'espandersi del virus, che per ora è presente in Vietnam, Giappone, Taiwan e Corea del Sud, contagia intanto gli altri paesi del quadrante orientale, dove non solo il pollo è tra gli alimenti principali, ma dove allevamento, distribuzione ed esportazione del prezioso volatile rappresentano un elemento cruciale della loro economia. Lunedì a Bangkok il commissario europeo per la protezione del consumatore David Byrne ha detto di essere stato rassicurato sul fatto che in Thailandia la febbre non c'è, ma il nervosismo resta alto, benché né Giappone né Unione Europea, il maggior mercato estero del volatile Thai, hanno messo al bando il pollame thailandese, ma la Cambogia ad esempio l'ha fatto. Thaksin Shinawatra, il roboante premier locale, ha già a che fare con un'epidemia virale che ha già mandato al cimitero, tra morti per malattie e macellazione preventiva, almeno 1,5 milioni di polli. Shinawatra continua ad affermare che di bird flu non se ne parla, per ora si tratterebbe solo di malattie intestinali e polmonari, ma non della febbre, mentre almeno 100.000 allevamenti sarebbero sotto torchio. Qui in Thailandia la paura è la chiusura di imprese spesso di piccole dimensioni o le ispezioni condotte dalle autorità locali stanno comunque già danneggiando un comparto altrimenti prospero. In molti casi, documentano fonti locali, i lavoratori degli allevamenti sono già stati mandati a casa e molti fra loro già stanno cambiando provincia in cerca di nuova occupazione, segno che in molti casi la sensazione è che si sia solo all'inizio. Emanuele Giordana, Lettera 22, a Misnet.